Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Cornoni in regia. Tempo di Sei Nazioni, volete che non sia questo il filo conduttore di questo sabato e di quelli che verranno con l'Italia in campo con l'Irlanda? Ciao Andrea Zorzi. Ciao, ben ritrovati. Grazie Andrea di essere qui come sempre. Io direi, l'abbiamo sentito ora nel GR, ma torniamo a fare un flash dal Flaminio con Dario Ricci, nostro inviato. L'Italia preme, ma il punteggio ci è avverso al momento. Dario. Sì, 10-6 per l'Irlanda quando siamo al 74esimo di gioco, decide finora la meta di O'Driscoll a inizio del secondo tempo, dopo che gli azzurri avevano chiuso sul 6-3 in vantaggio la prima frazione di gioco. Azzurri che stanno provando chiaramente a realizzare la meta che probabilmente vorrebbe dire successo a questo punto, ma tiene botta l'Irlanda e anzi nel secondo tempo sono stati soprattutto gli azzurri a condurre il gioco, a partire proprio dalla meta di O'Driscoll. L'Italia che quasi mai si è riuscita a riaffacciarsi nella metà campo dei verdi d'Irlanda, tranne che proprio nell'occasione che abbiamo raccontato in diretta durante il GR24 pochi istanti fa. La mischia, ancora una volta il nostro punto di forza, ci ha spinto a pochi metri dalla meta, ma una combinazione, un errore, una combinazione in veloce tra Paris e Lucic ha permesso agli irlandesi di liberare con un calcio di Sexton. Siamo ora al 74esimo di gioco e c'è una rimessa, una touche in favore degli azzurri con Ongaro che pochi minuti fa ha sostituito Ghiraldini, pronto a chiamare lo schema. Siamo all'incirca 15 metri dalla linea di meta irlandese, altra occasione buona, intanto però cerchiamo di riconquistare il pallone, ce la facciamo con Zanni che subito chiama a raccolta gli azzurri per la mischia, provano a spingere gli uomini di Mallet, ma riescono gli irlandesi a contenere la spinta degli azzurri. Intanto subito si posiziona Cannavosio per provare a pulire il pallone, la mola azzurra continua a spingere, a guadagnare pochi centimetri, però gli irlandesi riescono a resistere. Esce però Parisse sulla destra, placcato ancora una volta dal numero 20 irlandese Reddan, e allora si prova a ricominciare seconda fase di questa azione d'attacco interminabile. Ancora Cannavosio pronto a raccogliere il pallone, anzi no, è Lucicero che prova ad innescare Del Fava però ancora una volta chiuso dalla prima linea irlandese. Siamo sempre intorno ai 7 metri dalla linea di meta dei verdi d'Irlanda e questo forse è il primo momento, questa ultima fase della partita in cui i verdi sì. Tornano a soffrire nel secondo tempo. Stiamo andando un po' avanti a capocciate, opaco. Primo tempo assolutamente opaca, ma Irlanda assolutamente opaca. Io raramente ho visto l'Irlanda giocare così male, con così tanti errori non provocati, errori di trattamento della palla, errori di passaggio, errori di presa. Italia che ci prova ancora, va al largo e forse ce la facciamo. Dario! È stata subito la splendida azione degli azzurri orchestrata da Orsera, subito a cambiare lato si è spostato rapidamente il fronte offensivo dell'attacco azzurro. Per la prima volta forse in questa partita siamo riusciti a giocare in velocità. Orsera subito aperto sulla sinistra, la palla è arrivata a Garcia che a sua volta ha aperto su Luke McLean che ha concluso in meta 76esimo di gioco, 11-10. Con l'Irlanda va detto, Dario, in inferiorità numerica, perché in occasione della touche di prima era stato espulso, cartellino giallo, espulsione temporanea per Limi, e quindi ci ha detto bene, miracolo a Roma, Andrea Zorzi. Ti vuoi attirare subito le antipatie dei tifosi di rugby però? Perché? Perché ne stai parlando mettendo davanti le difficoltà dell'Irlanda, quando invece questa mi pare essere un'occasione. Ragazzi, vogliamo fare i tifosi, facciamoli. io ti dico com'è, ovviamente faccio il tifo per l'Italia, però devo dire che è una cavalcata travolgente, non lo è. Una partita di grande orgoglio, ti dico, io onestamente l'Irlanda non l'ho mai visto giocare così male, ma non solo con l'Italia, anche con gli altri, con così tanti errori di trattamento di palle. Insomma, se perde l'Irlanda merita di perdere perché ha giocato una pessima partita. L'Italia, solita grande partita di orgoglio, ha trasformato Bergamasco, Dario? No, il calcio no. Non è stato trasformato il calcio di Bergamasco, siamo sull'11-10 per l'Italia, errore di Mirko Bergamasco. È chiaro che per l'attacco azzurro sono fondamentali i calci di Bergamasco, soprattutto in questo momento stato un po' più vicino a chiudere questa partita, ma il pallone che proprio è uscito sulla sinistra di pochissimi centimetri. Saranno 4 minuti di sofferenza, Italia 11, sì. Irlanda 10, Carlo. Italia 11, Irlanda 10, 4 minuti di sofferenza. Intanto, beh, in fondo il calcio sposta poco, perché comunque sarebbero stati 3 punti che non ci avrebbero dato il break, cioè il vantaggio sul un eventuale l'ombrello su un'eventuale meta irlandese. Quante ne abbiamo visti partite di rugby insieme, Andrea? È un po', capita frequentemente che quando arrivo un po' prima per fare due chiacchiere sulla trasmissione, sì, ci vediamo quasi la parte finale di un incontro, oggi con la meta che stiamo rivedendo adesso anche nelle immagini, sì, e quindi con l'Italia che potrebbe ricominciare, seppur con qualche dubbio come ti dicevi, a portare a casa i risultati e non perdere onorevolmente, che a quanto pare è diventato l'obiettivo, smettere, sì, di dire che si è smettere perso. Smettere di dire che basta con le onorevoli sconfitte, ci hanno stufato, tutti d'accordo sul punto. Certo che batte l'Irlanda, la prima delle sei nazioni, quindi con già la certezza di non aver cucchiato, anzi di essere primi in classifica insieme all'Inghilterra che ieri ha vinto in Galles, beh, tombola, sarebbe un grande risultato. Sai, mi sa che se ne è già parlato altre volte di questa strana situazione in cui l'Italia ha una grandissima risonanza mediatica, come accade a pochi altri sport, e talvolta non riusciamo, come dire, a trovare la giustificazione per questa attenzione con i risultati. Dopodiché è uno sport che ovviamente può puntare su tanti altri aspetti, quali i valori, quale l'interesse a livello mondiale, ma qualche volta questo mi o forse ci colpisce, perché è come se esistesse questa asincronia tra l'importanza nei media. Abbiamo parlato un po' presto. Dario Ricci! È arrivato il drop di O'Gara, stavo dicendo, Carlo, attenzione in questi ultimi minuti a Ronan O'Gara, che è entrato nella ripresa perché poteva essere l'arma tattica decisiva per gli irlandesi, e infatti l'Irlanda è andata a costruire, pur in inferiorità numerica per il cartellino giallo di Limi, le condizioni ideali all'altezza dei 22 metri per il drop di O'Gara, che ha appunto trasformato. Allora Irlanda che torna avanti, Irlanda 13, Italia 11, quando mancano 2 minuti più recupero alla fine della partita, e adesso azzurri che già si sono riversati nella metà campo irlandese. Decide finora questo drop di O'Gara, si vedeva che l'Irlanda si era riportata proprio nella metà campo azzurra per ricreare le condizioni tattiche più adatte per permettere a O'Gara di trasformare il drop, di giocare il drop, tentare la trasformazione, piano perfettamente riuscito, e quindi Irlanda 13, Italia 11. 8-0-0-24-0-0-24 invece è il nostro numero verde, e il sogno è durato meno di 2 minuti con questo drop di O'Gara sulla prima reazione irlandese dopo la meta italiana. C'è forse anche una lettura legata al fatto che, come se l'Irlanda potesse un po' modulare il tipo di gioco, il livello di gioco, e in questo caso messa alle strette ha avuto la capacità di trovare un drop, come se i tanti errori commessi nel primo tempo fossero anche determinati un po' dalle tante assenze, ma sì, forse dal fatto che non prendono mai sotto gamba un impegno, questo sarebbe errato, però ti moduli rispetto all'avversario che hai di fronte, sai che sei più forte e sai che comunque in linea di massima troverai, qualche volta la paghi, sì, questa, sì, no, certo, supponenza viene pagata, però evidentemente il drop in pochi secondi significa che hanno le armi tecniche e tattiche per provare ad andare avanti. Non c'è dubbio, però ripeto, l'Irlanda ha giocato una pessima partita oggi, perché la forza dell'Irlanda sta nei centri, sta in quei giocatori che la nostra nazionale non, che il nostro rugby non riesce ancora a produrre, e oggi quelli dietro irlandesi hanno giocato davvero una brutta partita. Dunque adesso direi, oggi giornata per sport da combattimento, non mi riferisco a Kivu, di cui poi comunque parleremo, anche perché sono curioso di sentire l'opinione di Andrea Zorzi sui fatti settimanali che ci portano a quel cazzotto di Kivu, che ci portano a quei meravigliosi edificatori di alibi che sono i nostri uomini del calcio, ma di questo parliamo più tardi, perché adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo al Flaminio per la fine di questa partita, per i commenti su questa partita, poi sport di combattimento, perché abbiamo una sorpresa anche più tardi nella seconda parte del nostro programma. No, beh, credo sia finita prima del traffico. Dario, confermi? È finita il Flaminio, Irlanda 13, Italia 11, l'ultimo disperato tentativo azzurro è stato un drop affidato ai piedi di Orchera, ma si era francamente veramente molto molto lontani dai pali, all'altezza della linea di centrocampo, palla che si è spenta tra le mani di Fitzgerald, e poi è arrivato il fischio finale, niente da fare anche questa volta, manca poco per arrivare a questa vittoria, ma l'Irlanda sbanca il Flaminio e conquista il 15° successo consecutivo negli ultimi 15 scontri diretti contro gli azzurri. Per gli azzurri gli applausi del pubblico, del popolo del rugby italiano, ma ancora una volta chissà se batteranno, capi. Non lo so, certo è che il verdetto è particolarmente amaro, perché a meno di 4 minuti dalla fine c'era il sogno da prendere. 800 24 00 24, numero verde. Andrea Zorzi intanto mi mostra, non so per chi c'era sabato scorso, di voi, mi mostra una pagina della Gazzetta di oggi, presentata la nuova McLaren, Hamilton innamorato addirittura, mai visto un'auto così bella. Quindi chiedi a lui come si fa a giudicare l'estetica di una Formula 1. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa, trovando consenso e dissenso da parte degli ascoltatori. L'idea era che è difficile giudicare bella o brutta una macchina. Chiedi a Hamilton. Cioè, chiedi a me, piace la sua fidanzata, se a lui lì ci arrivo. Speciale 6 nazioni. Beh sì, tempo di 6 nazioni, tempo di speciali che ci accompagneranno per tutta la durata di questo torneo appena iniziato, e questa sera vivrà l'ultimo atto. Ripeto, al Flaminio 13-11 per l'Irlanda, e ci fa male in modo particolare per le modalità con cui è arrivata questa sconfitta, che sono quelle che Dario Ricci, nostro inviato, ci ha raccontato. Favorita di quest'anno? Favorita di quest'anno dicono l'Inghilterra. Dicono in Inghilterra, che ieri ha vinto in Galles, erano 7 anni che non vinceva in Galles, sentivo, quindi, ma lo chiediamo a Giacomo Bagnasco, ne sa più di me, cosa dici? Giacomo? Eccoci, siamo qui. Favorito di quest'anno chi è? Il favorito di quest'anno, secondo me, se c'è un favorito, vista la partita poi di ieri, dovrebbe essere l'Inghilterra. Ha un calendario migliore di altre formazioni tipo Irlanda e Francia, che ospiterà in casa. È partita bene vincendo in Galles, e ricordiamo che è una squadra che nella seconda metà del 2010 si è permessa di battere, o meglio da giugno 2010 a novembre 2010 si è permessa di battere l'Australia sia in trasferta sia in casa. Breaking news. Una notizia importante arriva dall'Egitto, dove Mubarak ha lasciato il vertice del suo partito. La notizia è proprio di pochi minuti fa. In precedenza anche il figlio si era dimesso dal vertice del partito, ma adesso la notizia è che Mubarak ha lasciato il vertice del suo partito. Ne parleremo alle 18 in GR24. E noi torniamo invece al rugby per sentire con Sky Leonardo Ghiraldini. Ma ci manca ancora veramente poco. Eravamo in vantaggio, non siamo riusciti a gestire il vantaggio. Loro invece sono stati più bravi di noi in questo. Hanno trovato subito il pallone da calcio d'invio, hanno giocato e hanno provato il drop. Quindi dobbiamo continuare così, e senza dubbio noi sappiamo il valore che possiamo dare. Il pubblico ci sostiene sempre alla grande. Ci dispiace tantissimo, siamo molto molto delusi, perché volevamo la vittoria e potevamo sicuramente conquistarla per noi, per il pubblico, per lo staff e per tutta la gente che ci segue. Però dobbiamo continuare così, è la prima partita di 6 nazioni, abbiamo senza dubbio la possibilità di vincere, la squadra c'è, i giocatori di qualità ci sono, dobbiamo continuare così. Questo era Ghiraldini, vice capitano azzurro. Dunque la delusione si sente dalle parole, ma soprattutto si legge negli occhi di Ghiraldini, ma ci sta, insomma, perché è scivolata via all'ultimo istante. Giacomo, il pensiero corre ad esempio a una punizione facile sbagliata di Mirko Bergamasco, anche la stessa trasformazione della meta azzurra non era facile lì, però ci avrebbe col senno di poi dato il pareggio, no? Dando per scontato quel drop di O'Gara. Io prima però ho detto, Andrea Zosi mi ha rimproverato, però ho detto l'Irlanda a giocare così male l'ho vista poche volte. Carlo, bisogna anche considerare che all'Irlanda effettivamente mancavano molti giocatori, questo va detto. Sicuramente se l'Italia avesse vinto non doveva questo sminuire il valore della vittoria degli azzurri, che purtroppo con l'Irlanda dal 2000 a oggi hanno sempre perso. Però ecco, questo può valere un po' come attenuante per un'Irlanda che sicuramente non ha giocato bene, e quindi se noi possiamo dire che si può recriminare qualcosa, ad esempio su un calcio facile sbagliato, loro in caso di sconfitta avrebbero dovuto recriminare su tantissimi errori nella trasmissione del pallone. Indubbiamente l'Irlanda ha avuto comunque più occasioni da meta dell'Italia, e fatto sta che questa a conti fatti era una grande occasione e le cose non sono andate bene. Sicuramente l'ingresso di O'Gara ha consentito probabilmente di giocare, di provare a giocare in maniera più serena l'ultima carta a disposizione, questo drop che O'Gara ha messo tra i pali per il 13-11 finale, dopo che l'Italia 3 minuti prima, 5 dalla fine, si era portata in vantaggio con la meta di McLean. Sì. Ed era in inferiorità numerica, peraltro, l'Irlanda per quel giallo Halimi, e dunque il rammarico è ancora più importante. Domanda velocissima. Dai, Andrea. Dall'interno del rugby, al di là delle dichiarazioni che si fanno in televisione, nei media, quella che è la posizione da tenere, che aria si respira dopo qualche anno di esperienza nel Sei Nazioni? Che aria si respira, nel senso all'interno della nazionale in un momento del genere? Nel movimento rugbistico più generale in Italia. Ma il movimento rugbistico è sicuramente cresciuto, soprattutto a livello di ragazzini che si avvicinano, e si avvicinano perché spesso sono i loro familiari a spingerli a provare questa esperienza. E qui c'è proprio un cambiamento di mentalità, un cambiamento culturale, se vogliamo. Dal punto di vista del gioco, io penso che anche oggi, se guardiamo il numero di occasioni da meta prodotte dall'una e dall'altra squadra, si vede che ci sono ancora sicuramente dei passi avanti da fare. L'Italia sta provando, ecco, ad avvicinare ancora di più il proprio livello a quello delle grandi europee con questa avventura in Celtic League, per cui praticamente ora come ora i migliori azzurri, anzi tutti gli azzurri, o giocano all'estero in Francia o come Castrogiovanni in Inghilterra, o giocano un torneo competitivo, due franchigie italiane. Certo, un torneo competitivo, due franchigie italiane che però stanno andando piuttosto male nel caso del Benetton, comunque non bene nel caso del Benetton, malissimo nel caso degli Aeroni Viadana, quindi anche lì ci vorrà un po' di tempo e di pazienza. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Giacomo Bagnasco. Insomma, l'aria che si respira è sempre quella di siamo contenti di essere qui. Che non è male, nel senso che non quando parlava di un cambio culturale, al di là del risultato, cioè noi di solito quando siamo qua tentiamo siamo portati a giudicare le prestazioni, quelle della grande squadra, però tu sai che da un po' di tempo io sto dedicando un po' di energia a Trazze di Sport per guardare un po' più in modo ampio al mondo dello sport, e ti assicuro che nel rugby mi colpisce moltissimo il fatto che in una società in cui ci sono pochissime occasioni per tutti e per i bambini di toccarsi, il rugby sembra essere in questo momento particolarmente utile, perché sai che la virtualizzazione, social network, dematerializzazione, sì, sì, via dicendo, il fatto di avere un ambiente regolamentato in cui il contatto fisico è parte integrante è comunque una grande opportunità. Questo non ha a che fare direttamente con Sei Nazioni, non ha a che fare con l'esposizione mediatica del rugby, però io penso che culturalmente sia importante per un'Italia che in generale, certo, con lo sport e la cultura non ha un rapporto così idilliaco. E questo è il massimo degli spot da quel punto di vista, Andrea. Sì, c'era un rischio, ne abbiamo parlato una volta, ed è quello che proprio i veri grandi valori del rugby potrebbero qualche volta essere un po' quasi diluiti da questa grande presenza nei media. Io credo che sia uno sport che per davvero più di altri ha questa possibilità di portare avanti il coraggio, la lealtà. Talvolta ho quasi paura che questa grande esposizione tolga un po' di sincerità. Sì. Invece penso che per davvero, se un ragazzino avesse bisogno di fare rugby, basket, pallavolo, atletica, nuoto, va bene tutto, però qui c'è quella parte del contatto fisico che è adesso importante. È particolarmente utile. Hai ragione. Io andrei di nuovo da Dario Richard Flaminio per sentire invece che aria si respira lì, oltre nell'ambiente del rugby. Dario. Beh, devo dirti Carlo, confermo l'impressione di una grandissima occasione perduta, soprattutto per quello che è stato il secondo tempo degli azzurri, che in realtà hanno solamente nella parte finale attraversato la metà campo e sono riusciti a rilanciare l'azione offensiva nella metà campo irlandese. Qui è tempo di recriminazioni, stiamo aspettando i protagonisti, il presidente Dondi, Nick Mallet e i giocatori, per capire le loro impressioni, ma credo che le parole di Ghiraldini, che abbiamo già in qualche modo sentito, ben rappresentino il clima generale, e anche qui siamo, qualcuno vede il bicchiere mezzo pieno, qualcun altro vuoto. Stavo parlando proprio con qualche collega e in realtà insomma la classifica dice zero, eh. Sì, la classifica dice zero, e insomma quel cucchiaio di legno che avevamo allontanato per un minuto e mezzo adesso torna lì, torna di attualità. E se mai ci sentiamo dopo, Dario, se arriva qualcuno, se si può sentire qualche voce o qualche dichiarazione, ecco, lo faremo, guarda, certamente. Posso, sì. Posso chiedere una battuta? Beh, se vuoi posso chiedere al volo una battuta ad Andrea Bongiovanni della Gazzetta del Sud, certo, certo, che molto gentilmente si è fatto placcare rimanendo in tema. Bene. Andrea, eccolo qua, grazie per la disponibilità. Andrea Bongiovanni, allora, è arrivata questa sconfitta sul filo di lana, tanto amaro in bocca per questa Italia che non è riuscita a capitalizzare questa grandissima occasione. Come l'ha vista? Perdere così fa ovviamente molto molto male, è un'occasione proprio buttata al vento, non che l'Italia abbia disputato una straordinaria partita, anzi ha mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti, soprattutto nella cerniera di mediana, senza idee, senza costrutto, però poi alla fine era arrivata la meta di McLean, sembrava partita quasi chiusa, invece non abbiamo difeso su quel tentativo di drop, e poi veramente l'ultima palla grida quasi allo scandalo perché l'abbiamo proprio buttata via. E ripeto, non è che l'Italia abbia fatto chissà che cosa, però a quel punto il risultato sembrava legittimato, invece è andata come è andata. Anche perché un'Irlanda così, soprattutto per quello che si è visto nel primo tempo, uno Driscoll irriconoscibile, chissà quando ci ricapiterà di rincontrarla. Sicuramente non si era mai visto un'Irlanda così e difficilmente si vedrà nel futuro. Si era detto che questa partita poteva essere un'anteprima di quello che saranno lo scontro decisivo per l'accesso ai quarti di Coppa del Mondo addirittura a ottobre. Secondo me l'Irlanda allora avrà ricostruito dalle proprie fondamenta, sarà un'altra Irlanda e sarà una tutt'altra partita. E a maggior ragione l'occasione sciupata oggi brucia. Grazie Andrea Bongiovanni, mi sembra una lettura, condivisibile, insomma. Questi saranno i nostri avversari per il lascia passare per i piani importanti del mondiale che sarà ad ottobre in Nuova Zelanda. Io credo che non ci capiterà questa Irlanda laggiù. Ma si può retrocedere nelle Sei Nazioni, cioè tornare al 5? Scrive Davide da Torino. No, non si può, ma è legittima. Cioè, io sarei comunque per una mobilità all'interno delle Sei Nazioni. Cioè un torneo storico, eccetera, in cui non c'è la possibilità di retrocedere, ma vale per l'Irlanda come per la Scozia, come per l'Italia, per la Scozia, grosso modo. È però vero che storicamente il Cinque Nazioni per un sacco di anni ha deciso quali fossero le regole e le ha seguite, ha poi deciso per questioni anche, immagino, commerciali, di diffusione, di popolarità, di inserire l'Italia. Però non dobbiamo obbligare gli organizzatori delle Sei Nazioni ad accettare quelli che sono sportivamente le regole, quindi retrocessioni, nuovi inserimenti, e i Sei Nazioni. Diventerà Cinque Nazioni, decideranno. No, può rimanere sei, però magari c'è qualcuno più forte dell'Italia, a quel punto può sfidare, voglio entrare io, allora gioco contro di te Italia, io Romania o io Spagna, giochiamo uno contro l'altro e chi passa. Bravo. Questa secondo me è la base dello sport. Però siccome viva qui Dio. Però il Cinque Nazioni storicamente ha detto noi facciamo così, hanno deciso che era roba che gestivano loro, hanno deciso di far diventare Sei Nazioni. Io trovo che, come dicevi te, sportivamente non sia una regola accettabile, ma è casa loro. Sei d'accordo con me però, eh? Come? Sei d'accordo con me? Totalmente d'accordo. Ma il Tri Nation nell'emisfero australe sembra si stia aprendo l'Argentina adesso. Sì. Però il rugby è pieno di casi in cui per ragioni storiche, tradizionali, non sempre rispetta quelle che sono considerate negli altri sport, le qualificazioni, i passaggi, le retrocessioni, le promozioni. Dunque Gino da Varese, perché sennò poi diventa tardi, poi ci fermiamo un attimo e poi parliamo di questo sì, ma anche di altro. 800 24 00 24, però c'è anche Mallet in diretta, dunque aspettiamo un attimo, ecco. Nick Mallet per ora ancora CT della Nazionale Italiana, dopo Sei Nazioni vediamo. Sempre avuto l'orgoglio, io sono contento con il nostro comportamento in difesa, anche in attack, e la gestione all'ultimo 5 minuti che era la differenza oggi, loro hanno i giocatori forse con un pochettino più di esperienza di noi, loro 9-10, loro avanti, hanno giocato veramente tante volte insieme a Leinster e a Munster, e hanno gestito l'ultimo 5 minuti bene, hanno ripreso la palla sul nostro calcio in via, abbiamo sbagliato questo calcio in via, preso la drop, noi sul nostro calcio in vivo abbiamo recuperato la palla e subito abbiamo calciato dentro le 22 per remessi di 22. Queste piccole cose sono le cose che cambiano la partita, ma io non posso dire non posso dire come io sono orgoglioso di questo gruppo di giocatori. Loro hanno fatto una partita incredibile e di perdere la partita all'ultimo minuto così è veramente, veramente difficile. Vabbè, sempre orgoglioso, sempre contenti. Gino, buonasera. Buonasera. Salve, il mio intervento voleva essere un po' più, diciamo, da più puntuale a più ampio. Puntuale riguardo la partita di stasera, penso che l'Italia, diciamo, ha migliorato tantissimo, soprattutto nella fase difensiva. Infatti quando l'Irlanda aveva il pallone, sì, ha sofferto, però secondo me ha difeso molto bene, bellissimi placcaggi che... Sì, ma questa non è una grande novità, novità. E per questo credo che, per quello che si diceva prima del 6 o 5 nazioni, penso che a questo punto l'Italia un posto, diciamo, se l'è meritato abbastanza all'interno del 6 nazioni, anche come livello rugbistico. Ampliando un po', diciamo, quello che è la visione, penso che chiaramente negli ultimi anni la strategia è stata quella di fare una cosa più multiculturale, diciamo, per quanto riguarda la Federazione Italiana Rugby, poiché oggi abbiamo visto dei 15 titolari che sono entrati. Accade da un po', cioè quando siamo entrati nelle 6 nazioni ormai molti anni fa, con una squadra che era di livello superiore rispetto a questa, che poteva anche tecnicamente starci in maniera più degna, no? Dominguez, che era la nostra stella, era argentino, quindi questa apertura c'è stata, ma quasi gioco forza, perché non produciamo giocatori almeno da questo livello, almeno per il momento. Andrea? C'ho una domanda anch'io, sai. Prova a immaginare di essere il capo ufficio stampa della Federazione Rugby. Sì. Una delle cose che trovo complicate è che dopo tutte le partite più o meno le dichiarazioni sono le stesse. Se abbiamo provato, ci è mancato poco. E il capo ufficio stampa dovrebbe trovare una modalità per rendere un po' più effervescente. Giusto? Quindi il compito è il tuo. Cosa inviteresti a dire... Malletto, tutti quanti i vari giocatori, per evitare di fare, come dire, sentire o percepire che siamo sempre alle soldi, ci nascondiamo un po' e tendiamo di nasconderci. Cosa gli faresti dire tu? Niente, mando curriculum all'Inter e vado a parlare. Mando curriculum all'Inter o al Milan, adesso che c'è Cassano, può essere divertente. Assolutamente. Facciamo così. Ma io invece credo che proverei ad essere, come dire, un po' meno difensivista. Sì, anch'io. Cioè, proverei anch'io a dire un po' più la verità. Anch'io. Se abbiamo messo l'impegno, e lo dicono sempre. Loro devono dirlo, sì, loro. I protagonisti. Devono essere... dirlo male, orgogliosi, sì, va bene, però abbiamo perso ancora e a 3 minuti dalla fine segni in contropiede e poi becchi il contropiede dall'altra parte. Esatto. Insomma, un pizzico di critica, secondo me, sarebbe più realistica. No? Nessuno li accusa di poco impegno, e questa è già una... Ci mancherebbe, non però c'è dubbio. L'idea è quella che provino a nascondersi dietro ai piccoli dettagli, quando invece forse una dichiarazione di quelle con una Irlanda così piena di infortuni, che ha giocato male contro di lui, non si è riusciti a vincere, e a quel punto secondo me si potrebbe tornare ad avere... Bravissimo. Dunque, occasione buttata via, 13-11 per la peggiore Irlanda che si potesse immaginare al Flaminio. Ne stiamo parlando con Andrea Zorzi, con ascoltatori, e oggi è giornata di sport da combattimento, che dopo il traffico abbiamo una sorpresa per voi, perché abbiamo un grande combattente, non un rugbista, un grandissimo combattente. E un altro combattente, non grandissimo, Kivu, ne parlavamo prima. Cosa ha detto dopo quel cazzotto? Ve lo ricordo, vi rinfresco la memoria. Spogliatoi del San Nicola di Bari, giovedì notte, Kivu. È difficile spiegarmela, ho perso l'attimo di lucidità. Io sono qua perché voglio chiedere scusa a Marco, soprattutto perché col briciolo di dignità che mi è rimasto, voglio pubblicamente chiedere scusa perché non è da me, perché mi dispiace per quello che ho fatto, mi sento un uomo di merda, mi sento male. È una cosa che non ho mai fatto, e vorrei anche chiedere scusa a tutti quelli che guardano il calcio, a tutti quelli che seguono questa squadra, ma soprattutto voglio chiedere scusa alle mie due bambine che magari un giorno guarderanno. Allora, Kivu in lacrime, mi ricordo una volta che tu, perdendo lucidità, andaste dall'altra parte della rete beccandoti un sacco di rimbrotti e di rimproveri. Io si perde la lucidità e si arriva a quel punto, o si può perdere la lucidità, magari sei nervoso di tuo, eccetera, eccetera, però c'è un limite anche al perdere la lucidità. Un campo non è un ufficio. Ci dovrebbe, no? Ci dovrebbe essere, questo è quello che uno si augura. A parte che sentire queste parole con questo tono di Chivu, secondo me lui non viene assolto per il gestaccio che ha fatto, ma più di così non poteva fare, dopodiché prenderà la giornata di squalifica, però per quanto mi riguarda personalmente il suo atteggiamento è assolutamente straordinario. Per quanto mi riguarda... Non può arrivare prima magari in campo, vai dall'avversario e dici scusa ho fatto una cazzata? No. Potrebbe, sì, può venire anche quello, può venire anche quello. Se penso io, ho solo l'esperienza mia, l'ho fatto due volte, due stupidate ciclopiche. Sì. Una... detti una spallata a Montali nel cambio di campo e lì pensai di essere anche furbo, pensai di essere uno che non aveva fatto vedere a nessuno questo colpo, invece mi squalificarono perché c'erano le immagini. Ma volontariamente sì, volontariamente lo feci, e lo feci volontariamente, e poi è veramente una stupidata, però provai a mentire al mio direttore sportivo, quindi questo ha reso ancora più grave quella stupidata. Nel caso invece dell'invasione di campo con i cubani fu proprio che avevo perso la testa perché mi stavano insultando, io reagii, lì mi sembrava la cosa da fare perché in quel momento davvero si va un po' con la pancia anche. Un campo non è un ufficio, esatto, dove si fa lo sport non puoi pretendere dei comportamenti applicabili a una redazione, a un ufficio, a una banca, esatto, quindi prima riprendi controllo della tua testa, meglio è, meno danni fai. Se i tuoi compagni ti obbligano a prendere la testa, fanno benissimo a farlo. Sì. Dopo occorre semplicemente alzare la mano e chiedere scusa per dire mi dispiace, ho perso la testa, non è una nota di merito, non è che sei più forte, più coraggioso perché hai fatto una stupidata. Questo mi sembra essere il messaggio finale. Qualche volta ci si riesce, qualche volta no. Chi non è mai stato in campo, chi non ha mai provato, secondo me, la pressione di essere preso in giro, fa un po' di fatica ad immaginare cosa possa accadere per perdere la testa. Meno volte accade, meglio è, non è una scusa, è un gesto inaccettabile. Poi se uno chiede scusa non ha risolto la questione, ma ha fatto il suo dovere, e sempre utilizzando dei parametri che non sono quelli applicabili alla vita quotidiana. Esattamente. Mauro, provincia di Milano, poi Marco da Modena. Mauro, buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera Zorzi. Per quanto riguarda Chivu, volevo dire che il fatto secondo me importante è che probabilmente con la moviola in campo i più penalizzati è stato il Bari, perché poteva fare tutto il secondo tempo in 11 contro 10. È comodo dire dopo sì scusate, fare diciamo un po' con le lacrime di coccodrillo e dire non stiamo neanche parlando tanto di moviola in campo, di episodi arbitrali, quanto di comportamenti umani, di comportamenti di sportivi, io credo. Poi andiamo a ragionare, certo, sicuramente, però quindi... volevo solo sostenere questa cosa sul fatto che probabilmente si parla tanto di moviola in campo quando secondo me magari la dovrebbero mettere solo per alcuni determinati episodi, come ci si può ricordare il Zidane Materazzi. Questo poteva essere uguale, poteva esserci qualcuno che potesse dire signori fate uscire Chivu perché sta penalizzando in questo modo Bari. Sì, però se sa benissimo che se si usa per questo si usa anche per un'altra cosa, eccetera eccetera, quindi o si decide di amministrare la giustizia su un campo in modo differente, oppure secondo me non è possibile neanche andare a episodi, anche perché poi si disarmerebbero i professionisti dell'alibi in settimana. Beh, ma non ho voglia di aprire questo capitolo perché abbiamo poco tempo, dobbiamo parlare d'altro. Lo apriamo però volentieri domani, no? I professionisti dell'alibi, che è stato il turno della Juventus, no? È stato il turno di Del Neri, poi ci sono professionisti dell'alibi in ogni singola squadra, ed è una cosa che io... francamente sto invecchiando, ma faccio fatica a sopportarlo ogni volta. Che lo fai da un po' di anni, da un po' di anni, conosci piuttosto bene l'ambiente, i meccanismi, riconosci i meccanismi di defocalizzazione, distrazione, alibi, via dicendo, e quindi lo sai fin dall'inizio che è tutto preparato, e secondo me un po' ti secca che alla fine abbiano effetto lo stesso, e soprattutto che ci abbocchino tutti. Tutti magari no, tu non ci sei abboccato. Quelli, i tifosi. I tifosi ci abboccano volentieri, perché è come come se trovassero loro la scusa per potersi difendere in qualche modo. Non ci credono fino in fondo, lo sanno che è un alibi, però intanto hanno quella opportunità che gli viene offerta dalla società. Marco Modena, buonasera. Buonasera a voi. Bassi la radio, grazie, perché sennò non sento nulla. Sono in vivo. Mi sente? Sì. No, non, c'è qualcosa che non torna. Provi a parlare con la cornetta. Guarda, ho disattivato il mio volume. Bravo, grazie. Mi sente meglio? Sì, sì, adesso sì. Benissimo. Io sono voluto intervenire in merito alla partita dell'Italia di rugby di oggi. Sì. E io credo che oggi l'Italia abbia fatto una grande partita e sia venuta fuori da un momento buio. Credo che ci siano delle dinamiche di tempo per il gioco del rugby in Italia, a differenza del gioco del rugby nei paesi anglosassoni, che si sente e si sentirà ancora per diversi anni. Ah. Fatta questa premessa, credo che Mallet abbia dato un grande supporto a quello che è l'ordine in campo dei giocatori e a quella che è la linea di difesa in campo dei giocatori. Ovvio che noi, essendo un paese latino, parlo da ex rugbista che ha giocato, sì, per tanti anni, e quindi un allenatore francese per l'attacco dell'Italia sarebbe meglio. È chiaro che quando noi con l'Italia abbiamo provato ad avere un allenatore francese, abbiamo fatto progressi, ma prendevamo 50 punti tutte le volte, sì, che giocavamo. Però i progressi con Josh Costa, i progressi con Berbizier erano stati tangibili, erano stati evidenti, al di là dei risultati che pure sono arrivati. I progressi con Mallet, non parliamo, con Johnston, non parliamo, con Kirwan, lì con allenatori di quello stampo i progressi non si sono mai visti, e io i progressi continuo a non vedere. Secondo me l'Italia oggi ha giocato male contro un'Irlanda pessima. Adesso però voglio parlare di un altro combattente. Vogliamo parlare di un altro combattente, non un rugbista, come vi abbiamo detto. Ma prima sentite questa scheda. Una capriola, un urlo, un pugno che si stringe in un gesto di vittoria. Pino Maddaloni conquista la medaglia d'oro di judo categoria 73 kg alle Olimpiadi di Sydney 2000, battendo in finale il brasiliano Thiago Camilo. Il judoka napoletano ha iniziato quando aveva solo 2 anni, allenato dal padre Giovanni. Inizia la trafila delle categorie giovanili arrivando praticamente imbattuto ai senior. Il primo successo importante arriva nel 1998, quando vince il titolo europeo a Oviedo, confermandosi poi l'anno successivo a Bratislava. Oggi allena la sezione giovanile delle Fiamme Oro nella splendida caserma Nino Bixio, appollaiata sulla sommità del Monte Echia, che sovrasta il Golfo di Napoli, e segue anche tanti giovani napoletani, offrendo loro un punto di riferimento importante, nonostante le mille difficoltà dovute alla mancanza di fondi e a una politica a dir poco miope. Questa scheda di Cristiano Bartelloni, invece l'ospite Andrea vorrei che lo introducessi tu. Ma semplicemente con un ciao Pino, ben arrivato. Ciao Andrea, grazie. Mi dicevi Pino, che sei in gara oggi, giusto? Sì, abbiamo fatto le qualificazioni qui a Napoli con un po' di ragazzini e stanno ancora continuando, però stiamo andando bene, grazie. Tutto a posto, quindi. Senti, ci racconti un po' della tua recente esperienza come allenatore della nazionale judo non vedente. No, è nata per caso, perché è venuto fuori il mio nome quando dovevano chiamare quel nuovo allenatore della nazionale non vedenti. Hanno fatto una telefonata, mi hanno chiamato. Ha fatto una telefonata, hanno chiamato e Pino è riuscito a rispondere. Adesso ci riproviamo noi. Tra l'altro, judo, mi spiegavi prima la parola judo. Ogni volta che vieni qui imparo delle cose nuove. Un giorno l'altro mi chiedi lo stipendio. Qui c'entra un po' la mia passione per il Giappone. Tutti i suffissi do che hanno a che fare con filosofie o sport che vengono dal Giappone hanno a che fare con la strada. Quindi il ken do è la strada della spada. Il judo viene tradotto in Italia con la via della gentilezza o della cedevolezza. Adesso, appena ribecchiamo Pino, gli chiediamo quale di questi due termini lui piace di più. Però è interessante perché nel judo l'abilità, la forza, la genialità è quella di non opporre forza contro forza, ma con tecniche di equilibrio utilizzare la forza dell'avversario per schienarlo, per vincere la partita. E poi ha a che fare molto con questo approccio, secondo me legato anche un po' alla filosofia tipica del Giappone. Quindi il judo non è solo una lotta, è qualcosa di molto più evoluto. Sì, certo che la via della cedevolezza è una questione di appoggi e di equilibri. Esatto. No, immagino, esatto, il judo, se riusciamo a recuperare di nuovo Pino, se lo facciamo raccontare da lui. il non vedere. Guarda, ma che, guarda che è tanta roba in questo approccio. Questa è stata l'argomento di discussione con Pino settimana scorsa, quando ero giù a Napoli. Ci siamo trovati, mi ha raccontato di questa sua nuova esperienza ed è felicissimo per questa opportunità. Ciò che mi sembra interessante è che il judo è una di quelle attività che anche un non vedente è permesso di svolgere con una certa abilità, proprio perché non è che tu quando fai judo vedi tutto. È chiaro che gli occhi ti aiutano, ma in realtà devi sentire molto dell'avversario, dei suoi equilibri, immaginare come stia, quali siano le energie. Quindi anche un non vedente che fa un po' di fatica all'inizio, se è per esempio nato non vedente, fa fatica ad immaginare quale sia la posizione dell'avversario, ma in realtà con il contatto fisico, la differenza è che loro iniziano toccandosi con le mani, quando invece un judoka normale sono liberi e iniziano a contattarsi. E quindi anche un non vedente può fare un judo di altissimo livello. E infatti Pino mi raccontava che ha una ragazza molto molto brava, ma alcuni atleti di questa nazionale nuova sono veramente degli ottimi atleti. E allora lo facciamo raccontare a lui, perché a quanto pare il ponte telefonico è stato ripristinato. Bentornato Pino, dai, ci racconti un po' di quanto sono bravi questi tuoi ragazzi della nazionale? Ma hanno una volontà incredibile. Abbiamo iniziato da poco e io che sono uno sportivo e che ho praticato judo per tanti anni, dire sono bravi, ci sto un po' con i piedi per terra, perché fino a quando non arriveranno dei grandi risultati, questo naturalmente aspetteremo prima di dire bravi. Ecco. Senti, ma Pino, scusa, perdonami la digressione, ma ci stiamo arrovellando sul dire che sono bravi quelli del rugby che perdono sempre. Allora, i risultati contano o non contano? O conta l'onore della sconfitta, il modo in cui si perde? Secondo me a tutto c'è un limite, anche all'onore nella sconfitta. Qualche volta bisogna vincere. No, uno che perde non è bravo, ecco. Hai capito? No, no? Bravo Pino. Vabbè, ragazzi, vinto. Uno che perde non è bravo, che si è impegnato, questo glielo lasciamo. Sì, ma nessuno lo discute. Nessuno lo discute. Che i miei ragazzi ce la mettono tutto e che hanno tanta voglia su questo. Poi se la prossima settimana io ho una gara in Lituania con questi ragazzi, la mia prima gara da allenatore della nazionale non vedente, se vinceranno medaglie oppure se daranno il massimo, poi saremo lì a dire ecco, non hanno combattuto bene però hanno dato il massimo, bisogna migliorare, però chi vince è bravo, ecco, questa è la mia deduzione. Capito Zorro? Un'altra domanda, Pino. Ho trovato che judo viene tradotto come arte della cedevolezza o della gentilezza. Tutti questi due termini, quali è che preferisci? Arte della cedevolezza, sì, perché io non ero uno di quelli che avevo tantissima forza. Quello che ero bravo è riuscire a capire dove l'avversario si appoggiava. E non dovevo usare tanta forza per buttarlo giù, ma dovevo solo riuscire a dare il tacchettino giusto, ecco, per colpire dove lui stava imponendo tutta quella forza e da lì un po' a volte sfruttarla anche. Per questo via della cedevolezza, sì, mi piace quella. Ci racconti anche di quando hai iniziato prestissimo, giovanissimo, a 2 anni, in cui ti fecero mettere le scarpe ortopediche perché sembrava che non fossi sufficientemente equilibrato? Ma questo è un qualcosa che mi ha sempre fatto ridere quando ho iniziato a capire un po' perché mi avevano messo le scarpe ortopediche. No, dove le scarpe ortopediche, io non avevo un grosso equilibrio, ogni due passi cadevo, e poi vincere le Olimpiadi o vincere gare così importanti nello sport dove c'è bisogno del massimo equilibrio, perché nel judo se cadi perdi punti, no? E vincere lì per me, ecco, è stato un punto di forza, ma oggi è uno slogan importante, perché dico sempre a anche quei ragazzini un po' grassocchelli, quei là che sembrano che non sono portati per il judo, dico ragazzi, se ho vinto io, ecco, possono vincere tutti. Allora Pino, grazie mille, in bocca al lupo per il tuo torneo in Lituania. Poi se ce lo prometti, ci risentiamo la prossima volta e ci racconti la storia di Piedone, che è un suo atleta. Aspetta, però, grazie, non raccontarlo adesso, se no svegliamo troppo, Questa è la prossima puntata. Grazie Pino, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo, grazie della telefonata. Capito? Chi vince non è bravo, possiamo anche dire che mi piace Pino. Mi piace moltissimo. Super campione ad ogni livello, che non vuol dire essere super campione, non vuol dire soltanto andare lì e vincere la medaglia d'oro. Vuol dire anche ragionare in una certa maniera intorno allo sport. Assolutamente. Alla prossima. Con Piedone. Con Piedone. Ragazzi, una storia bellissima, Piedone. Fa il macellaio. non dire niente, no, se no la scoprono prima. Grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia, Cristiano Bartelloni. Ci sentiamo naturalmente con lo sport. Attenzione, lo sport. Domani pomeriggio, 4:30, sempre inizia il programma sportivo. Però da domani e per qualche settimana è tempo di mondiali di sci, dunque spazio a uno speciale Massimo Di Scienza con lo sci in vista dei mondiali dalle 4:30 alle 5, poi dalle 5 cominciamo noi con tutti i nostri discorsi. A domani!